immaginata un cancello aperto con tanti fiori, dove chiunque può entrare e cogliere i suoi, richiamato da dei colori. Questo cancello lo immagino socchiuso, non aperto. Perciò per entrarci bisogna anche stringersi o aprirlo un po' di più. Poi devi scegliere. Ecco, questo è un flash sulla mia sessualità. È che ormai dentro quel cancello non ci sono più dei bei fiori. Sono stati calpestati. Capisci?